eccetera. Quanto hai pagato tu di dogana? Il 22% della fattura del pezzo? Ma dimmi una cosa, da negozio hai acquistato o da privato? Voluminoso, Roberto. Cosa hai detto qua? È voluminoso il pacco. Sono tre pacchi abbastanza grandi. Se ti dico quanto sta spendendo, chi li sta spendendo ti metti le mani in testa. 216 euro. E un altro ne ha chiesto 700 euro, ma tu sei scemo. Ecco perché non sei voluminoso. Perché se un pacchettino piccolo e dogana paghi poco. Ma la dogana, oltre all'autogranamento c'è anche il peso, ma capito? Io per il datte, per il volume del datte, per il coso avevo pagato 95 euro di dogranamento. Non lo so, ma siccome sono vestiari, abbigliamenti, roba personale, dai, dinamica. Cazzo, ti hanno già fatto pagare 216 euro di spedizione di HL. In più, come si chiama? C'è la dogana, dice che non è paga, ma io sono sicuro che la fanno pagare la dogana. Però io sapevo che tra privati, Claudio Di Muros, non ce n'è dogana, se è roba usata o cosa dire. La dogana te la fanno pagare solo sulle cose, se sono contrattazioni tra negozi e privati. Però tra privato e privato, penso io, almeno detto d'accordo da gente che compra spesso dagli Stati Uniti. E questo, infatti, io stavo parlando con una persona che lui acquista tantissimo, un sacco di roba dagli Stati Uniti. Mi ha detto che poi questo fatto alla dogana lo fanno così a scaglioni, non a tutti. Dipende pure, per dire, se entra oggi dice vabbè ci sono entrati 50 pacchi, prendiamone uno e li facciamo pagare la dogana. Non è detto che lo fanno a tutti, questa è una persona che acquista spesso e un sacco di roba. Quando mi ha fatto vedere il prezzo di questa roba, la fattura di roba di abbigliamento, roba vestiario che se lo sta riportando nel suo paese, e cazzo, ha pagato 216 euro, sono due pacchi, uno pesa 10 kg, l'altro mi pare 5 kg e l'altro 8 kg, tre trucchi, tre culli, hanno fatto pagare una cifra esagerata. E scusate, stiamo monopolizzando, no, ma non riesco a capire, cioè tu quanto hai pagato la merce, in base a quanto te l'hanno fatta pagare l'IVA, non riesco a capire, tu hai dichiarato una cifra del costo della merce. Sì, ma la merce effettiva quanto costa? Quel tipo quanto ha voluto? Tu, per dire, il transito quanto l'hai pagato a lui personalmente? Non ho capito, però cacchio, loro la dogana è in base a quello che dichiari, per dire, la merce costa 100 euro, 100 euro più IVA. Però se tu stai vendendo un privato, cioè lui cosa ha indicato la cifra, tra l'altro stiamo parlando di comunità europea, l'Olanda è in comunità europea, allora c'entra la dogana, non ha già compreso. No, mi sembra stranissimo, sinceramente ne dubito che ti hanno messo in mezzo la dogana, prima di tutto perché merce privata, privato con privato, dopodiché l'Olanda fa parte della comunità europea, almeno chiedo conferma a Gianni o a Claudio se mi conferma, per quanto mi ricordo io l'Olanda fa parte della comunità europea, confermate? Mi sembra sì, io ho arrivato dagli Stati Uniti, quindi non so cosa dirti, vabbè. No, non è che si paghi molto, credo. Sì, ma quello che io voglio dire è, a lui dogana non ce ne dovrebbe essere, perché è un paese europeo, non è extraeuropeo, cioè fuori dalla comunità europea, perché certo, se tu lo volevi spedire da di Bussudi in Bosnia o cosa di Bussudi in Kazakistan, sono paesi extracomunitari, quello sì, la dogana c'entra, ma poi stiamo parlando paesi della comunità europea, io l'Olanda, per come mi ricordo io, fa parte della comunità europea. Ehi, aspetta, facciamo riprendere a Gianni, avanti Gianni. Gianni, dimmi un po', il tuo babbo non sta più entrando in radio, Claudio. Ehi, ma dimmi una cosa, ma la postazione dove sei tu adesso, camera tua, è la stessa dove utilizza lui o lui c'è in un'altra camera? Ehi, ma l'antenna è unica, avete un unico cavo, ve lo sa che, cioè non potete trasmettere in due. Ah, perché a quel punto ti fa un commutatore come facevo io, ho due stanze diverse, con un commutatore due linee separate, quando devo andare stanza 1 metto quello, stanza 2 l'altro. Ah, no, non c'è bisogno di mettere un'altra antenna, e che cacchio, se no vi sciogliete i baracchini, come schiaccia uno disintegra l'altro, no? E basta una, poi se dovete parlare insieme andate in un'altra stazione, se per dire lui è in camera sua e la notte non ci sei tu, commuti il commutatore dell'antenna e passi all'altra linea, che bisogno c'è mettere una seconda antenna. Aspetta, sei rientrato doppio rumo. Gianni, ci sei? Oh, non so se sei tu che stai parlando e ti stai portando appresso un fisso o se c'è qualcuno sotto che sta facendo il furbacchione. Prova a parlare, Claudio. No, adesso tutto ok, forse era qualche disturbo magari di qualcosa, dai, tutto a posto. Dimmi una cosa, chi è questo tecnico? Ma è di lavoro, lo fa o ha passato? nazionale. Già lo sappiamo chi è, già non c'è bisogno di nominarlo. Ma di dove è questo? Ah, viene qua in Sardegna per lavoro. Ah, sono contento. Vabbè, buona sapersi, magari se capita qualcosa. Cosa c'è anche apparati in vendita questo? Ah, oh, così a livello di curiosità, molte volte ci può essere qualcosa di interessante. E poi si valuta qualche scambio, cosa del genere. Aspetta, facciamo un attimo di bianco, vediamo se è rientrato Gianni. Avanti Gianni. Claudio, tu ancora travagliando, sai, dove torre di controllo. Io già commutato, sono già dall'altra parte della scrivania, tornando con l'Inuit base mio. E che microfono c'hai? Sempre MB più 5, bene va? È un po' rimbombante, ti sento però. È rimbombante perché è molto più vuota la stanza, dai. Abbasso la voce. Vabbè, cazzo forte Claudio. No, la riparata non gli ha preso niente, solo 100 euro. Vabbè, Claudio, quanto mi hai detto? 200 euro? Certo che sì. No, stavo facendo perché ho fatto la base grande, quella appunto che avevo prima in dotazione, sto mettendo i vintage base, e nell'altra sono la parte HFV1, capito? E quindi adesso deve arrivare il commutatore d'antenna per poter commutare, ma intanto ho già preparato il cavo, mi sono già passato dall'altra parte. Ok, sì, ti faccio la foto e te la mando avanti, Roberto. Eia. Stavo dicendo, ma Claudio ti ha fatto pagare solo il pezzo, no? La manopola, così ha detto. Eia. No, vabbè, naturalmente c'è un'esperienza, non mi metto io a fare queste cose. È meglio farlo fare a chi è pratico. Ma buona sapessi, perché l'unica persona che conosciamo già lo sai chi è qua, Sassari, che si occupa di queste cose, se no devi spedire fuori. Eia. Ok, adesso facciamo un'altra chiamata, un attimo di bianco, vediamo se è rientrato Gianni o se c'è qualcuno che vuole entrare. Un attimino di bianco. Nutta, come ti sto arrivando io con questa radio di lì dalle tue parti? E dove è Morcone? Giù in Alta Italia? Ma lui per cosa viene a fare qua? Non ho capito. Mi ha detto ANAS tu, cosa c'entra camionista con l'ANAS? Ah, ho capito che lavorasse all'ANAS. Ah, no, ho capito male io, non c'è problema. Ma viene spesso qua in Sardegna questo? E se no, se c'è tempo, gli facciamo vedere un'altra cosa e vediamo un po', dai, ne parliamo a quattrucchi. Ha fatto anche saldatura? Ce l'hai saldato, è tutto a spinette, però devi stare attento quando togli. Sicuramente ha cambiato la scheda unit, perché il problema era lì, capito? Già lo so, qua già aveva quella radio. E quindi ha cambiato quella scheda lì. È tutto a spinette, devi stare attento, come le tiri, come le togli, devi segnarti tutto. Forse qualche saldaturina già c'è da fare, ma niente di particolare, dai. Va bene, io sto andando, sì, te l'ho mandata la foto Claudio, però non gli è arrivata, evidentemente non ha linea tuo pazzo, deve uscire fuori per guardarla, dai. Ok, no, la faccio andare un pochino questa, l'Inuit che mi piace tantissimo, la faccio andare, riprendi Robert, già mi senti bene lo stesso. Culo. 9,50 voglio che ti senta. Ma questo è quello che ti ha per frontalino Claudio? Sì, questo è l'Inuit, il 294. Nuova, è uscita e Luca Flipper mi ha cambiato il frontalino. Adesso è veramente molto molto bella. Mi piaceva anche prima, però senza le scritte, senza le cose, adesso è nuova, è imbustato questo frontalino, hanno procurato Gianni. Ti ringrazio ancora vivamente, ma con lui non ce n'è problema. Lo so che quando dice una cosa la fa. Vieni Russia nel momento Edo, vai Muros. E già lo dico, sono contento. Era dentro l'armadio, l'avevo nascosta perché era talmente brutta che quasi non la stavo usando, perché a me piace avere le cose belle. Capito? E allora adesso è veramente in vista, ecco perché gli ho fatto il posto proprio in prima linea, io ho una scrivania solo per i vintage, dall'altra parte ho fatto gli HF, ho fatto una cosa diversa, per non stare troppo con le cose ammucchiate, non confondere la lana con la setta. Sono contentissimo, lo ringrazierò a vita, perché queste sono cose introvabili ed è un casino a cercarle, capito? Avanti, vabbè. E gli amici sono nati in quello. Al momento del bisogno, i veri amici. Poi ci sono gli opportunisti e gli scrocconi, che quelli non mi piacciono. Allora, quelli lascia perdere, meglio niente. Quante cose ho dato, ma non ho ricevuto. No, c'è gente che le fa le cortesie, contraccambia, e però non siamo tanti, non siamo tanti. Ah, è Gianni, il doppio chilometro, non mi dice, doppio. A notte non è andato a portare il cane, stavamo parlando, diciamo, un paio di minuti consecutivi con Claudio di Muros, e poi l'ho richiamato, non ha risposto. Perché è un bel stanco, ci siamo incrociati stamattina, è un bel stanco, c'è un problema del torremi, anche lui c'ha questi problemi, e quindi evidentemente ci ha abbioccato. Avanti Claudio, riprendi, quindi mi ascolti bene, vabbè il segnale non sarà molto alto, sto andando con 6 watt modulati quasi 8 e basta, è liscio liscio liscio, il segnale non sarà molto alto ma la radio già è buona. No, va bene, però cacchio di Claudio arrivi più forte di me, che devo mettere una direttiva verso Muros con un lineare almeno un 300-400 watt e vediamo chi è più forte. Sì, la radio proprio, Zecchi come siamo tutti e due? Ah vabbè, accorciamo le luci per vedere chi arriva più forte. No, mi sarebbe piaciuto, ma guarda che io arrivo lontano così, un giorno stavo provando, mi sembra proprio questa radio, ed è entrato Daniel, e che c'è un bel QRM oggi, non so se riesce a superarlo perché il tempo è brutto, tra vento e acqua, capito? E non pensavo di arrivarci, ed ero così, con 8 watt, e arrivavo Santiago 4, invece quando sono col campo gli arrivo Santiago 9, quindi immaginate tu. Capito, perché questo c'ha 5 watt, 6 watt, il K io lo tengo sempre a 20, 30 watt, non di più. Perciò mi sarebbe piaciuto magari quando c'è lui a fare due prove, io, tu e Antonello, che siamo quelli della zona alta, capito? KK, avanti, riprendi, vabbè, fai girare. Sì, l'importante è farsi ascoltare, non c'è problema. Io ti ho detto, già mi conosci il mio carattere, come sono fatto, a me la maniera della forza non mi è piaciuto, e lo sai che se voglio posso mettere anche qualcosa anche io, ma non me ne è mai fregato di più di niente. Se mi ascoltano va bene, gli ai massimo mi ascoltano tutti, e gli ai massimo ascolto quasi tutti, dai, non posso dire di essere eccezionale, ma modestamente qualcosa già tiro fuori anche io. Ok, Claudio, avanti a te il mic e vediamo un po' cosa c'è da raccontare. Ma Claudio c'ha una bella posizione, bello in alto. Io se abitassi dove abita mio fratello, guai, di lì sì che ti avrei fatto danno. E tu figurati che io ce l'ho attaccato, cosa cacchio devo dire? Tu sei a un po' di chilometri, io ce l'avrò in linea d'aria, siamo a 600-700 metri, forse neanche. E le antenne probabilmente si vedono le mie con la sua, per cui se lui attacca, guai, che cacchio, non parla più nessuno dalle mie parti. E bisogna stare attenti, io col pace per dire, se non mettevo, chiudevo l'RFG non riuscivo a sentirlo, perché era talmente forte, con il K già l'ascolto, dai, anche quando è forte lo tiro fuori. Non so se mette potenza massima, non lo so, non l'ho mai fatta la prova. Però col K, se non ho mica il K, col pace, se non metto l'attenuatore non riesco a tirarlo fuori, me lo ammutunisce, non ha i filtri in ingresso quello, il coso, il pace, la stazione base. Stai rincoglionendo però. Dimmi qua. No, sono qua, detto, ti stai rincoglionendo però, perché la prova io l'ho fatta, sarà una decina, 10-15 giorni fa. Ti ho incollato lo smitter del 440, si è andato a attenuare e non attenuava e non riuscivo neanche a capire quello che stavo dicendo. Ah sì, mi ricordo. No, ma non ti ho mai sentito con quello grosso. Tu forse stavi usando qualcosa sui 300, quanto ne stavi? Stavo usando 400, che è il medio, ok. Quando ho usato il grosso, guarda, se si sveglia già di doppio numero te lo fai raccontare. Io non so se tu ti ricordi quando entrava Gavino. Gavino abita un po' giorno di differenza da Gianni, da Gianni doppio rumo, quindi se no saranno 20, 30 metri, 50 metri in linea d'aria, ok, forse 50 metri in linea d'aria. E abbiamo fatto una prova, ma così per giocare, c'era un sacco di gente, già non ci abbiamo fatto delle giate. Tu immaginati che io facendo la prova con Gavino, mi sembra che a casa di Gavino ci fosse anche Massimiliano un giorno, che a casa di Gavino non sentiva Gianni, immagina di duro danno che può fare. Me lo immagino, se dai tutta quella potenza, figura. Ma tu stai parlando di quello grosso? Sì, dell'FL 2100, un kilowatt e quasi e mezzo, capito? E li dà, non ci sono casi perché li dà, perché c'è l'ingresso da 100 watt, quindi ne sta volando 80, ne sta volando 80 d'ingresso, le valvole stavano, erano viola che non ce la facevano più, e stava erogando intorno agli 850-900 watt PEP, capito? Claudio di fare queste cose, a me non interessa, io l'attrezzatura ce l'ho, l'importante, ho sempre detto che a me non mi rompono le palle, non mi devono disturbare, mi devono lasciare tranquillo, parlare sereno, se dobbiamo giocare, per carità, sono il primo a giocare, a fare casino, anche prove tecniche di trasmissione. Però non si metta, e sottolineo, non si metta nessuno in testa che a me mi può dare fastidio qualcuno, perché non temo né il vicino di casa e neanche quello che uno attaccato all'altro, non temo nessuno io, l'importante è che mi lasciano tranquillo e sereno. Allora, praticamente è tutto unico, perché in SSB io l'ho provato, e Roberto è qua presente, te lo può dire, io stavo usando un MT3000 in SSB e avevo in pratica 50 watt di pilotaggio sull'ingresso allo stadio finale della modifica della valvola. E non mi sono accorto che l'MT3000, anziché mettono in scala a 2000, lo ce l'avevo in scala a 1000. Ho fischiato e si è crepato lo strumento della T3000, che poi Roberto, l'ho fatto a Roberto, se l'ha riparato. Capito? Quindi in banda laterale è una bestia. In AM si difende molto bene, c'ha due tubi e c'ha due valvole, le 872, che sono un po' più piccole delle 3500Z della Kenwood, un po' più piccoline. Praticamente le 3500Z, per farti capire, sono due fondi di boccione. Quelle che ho io sono due fondi di bottiglia di birra, quindi immaginati tu. Io non attacco perché intanto ne ho un altro trasistorizzato e non fa quel lavoro, però già si difende abbastanza bene dell'RMI, te l'ho comprato da poco. Quindi va benissimo. Però quelli sono amplificatori, è un amplificatore che io usavo in HF quando avevo le direttive, ti dico che andava, e va ancora, cioè avevamo le nuove, e va bene, capito? Comunque, l'importante è avere la roba, saperla usare, saperla gestire, perché usare quella roba lì non serve proprio a niente. E poi c'ho il 911, il DL911, che è uscito prima del DL922, che anche quello ho preso da poco, è proprio dall'altra parte, dove ci sono gli HF, già pronto ad accendere in caso, perché quello è molto bello, se avete mandato la foto, è bellissimo, capito? Però non lo uso neanche quello perché è valvolare, se no mia moglie rompe le palle con questa corrente, sai come sono le donne, no? Avanti, vabbè. Vabbè, dai, adesso ve devo lasciare che sto uscendo. Ciao Claudio Muros e Claudio Torre di Controllo, dai, è stato un piacere ascoltarvi, ci sentiremo quanto prima. Ciao, vabbè Claudio, già ci vediamo domani noi. Ciao, io ci sono sino alle 10, non venire dopo, se no non mi trovi. Buon proseguimento a tutti e due, saluto anche gli eventuali amici qua su canale 10 in ascolto. Ciao. Ciao Robin Hood, non ti preoccupare, se lo sai che arrivo prima io in officina, tutte le mattine sto aprendo io, quindi svegliati presto. Tutte le mattine arrivo, ancora c'è la serranda chiusa. Capito? Vabbè, domani mattina le porto quel pony, ho voluto provarlo a vedere se effettivamente, come dicevo io, ma è la radio che non va, claro. Forse non ha mickey gain per quello, no, non pompano, il microfono è a posto, non fischia, non fa, ma non dà potenza, guarda queste, cioè, il mickey gain ce l'ho neanche a metà, il tono a 2, guarda come rulla. Sì, perciò non l'avrei collegata, non avrei fatto tutto il lavoro che sto facendo per passare i cavi all'altra base. Adesso ti mando una foto dell'amplificatore, guarda, del 911, sempre quello della Kenwood, del TL911, aspetta che te la mando. Sì, te l'ho fatta, sì, mi ha anche risposto babbo. Bellissimo, ha detto, beh, già lo grido, già, grazie a te è diventato nuovo, vai. Mi piace tantissimo, guarda, anche modularci, perché adesso in pratica sono sulla base proprio dove sono in vintage, non ho niente in mezzo alle balle, vabbè. Te l'ho mandato qua, si vede, non c'è molta luce perché è sotto, la verità, non lo voglio tenere in mezzo alle balle perché eroga un calore allucinante, c'è una ventola, la carta grande quanto la radio, però te ne accorgi che è molto professionale, guardati i pomelli, guarda solo i pomelli di movimento come sono molto molto robusti, molto grossi, cioè, è strutturato molto molto bene. Quello da 1 kW lo stesso, in AM nero va intorno ai 600, in banda laterale intorno ai 1000-1100 watt, non di più. No, sinceramente l'ho lasciato bianchi, gialli, verdi e celesti. Sono tutto l'originale, siccome questo è nato senza luce l'ho lasciato così, ma si potrebbe anche illuminare, però è meglio quando parliamo di vintage, la parola vintage vuol dire roba vecchia, roba di tanti anni fa, e il valore che prende è quello praticamente che è nato. Io ho il Dark che ha le lampadine sue originali a siluro, figurati, per illuminare gli strumenti, e li ho ordinate da fuori perché qua a Sasse non ce n'erano, perché se dovessi dare il Dark per dire uno va bene, cioè, ma hai cambiato le lampadine, quella sai, perché un collezionista guarda anche queste cose, come un tappino, un pomello, tutto originale deve essere, gli ho rimesso i suoi pomelli cromati a questa, deve essere tutto l'originale perché altrimenti perde il suo valore, capito? Il mio è il Marchi 10, poi c'è il Marchi 5 e il Marchi 9, il mio è il Marchi 10 e ci sarà un prezzo base di chiusura d'asta, io non è che ne faccio, non me ne intendo, me l'ha spiegato Luca Flipper che è abbastanza bravo in queste cose, tutte le mie radio, le mie cose me le ha vendute lui, me le sta seguendo lui, capito? Perciò, guarda, il valore del DAC, di quello che ho io, del 10 è intorno alle 350 euro. Non te lo danno di meno, assolutamente. C'è anche chi te lo dà a 370, 380, anche 400 li danno. Però ormai mi possono offrire quello che vuoi, per me non esiste, va. Ce l'ho qua a fianco, mi adesso lo accendo anzi. È bello massiccio. Ti ho mandato la foto di come ho organizzato questa parte, dai, ancora devo metterne altre, ma per il momento non ne metto molte. No, io ho il 140 e il 430, non ne ho sì 80. E vabbè, quelle sono radio belle, piani a vette, quindi non c'è problema. Che ora si fa? Le 7.25. Dai Claudia, io ti lascio che vado a prepararmi, così mi sistemo il cane e poi c'è da organizzare qualcosa per la cena. Ok, un abbraccio grande a te, a babbo, a mamma, saluta a tutti, dile a babbo che gli ho mandato le foto che mi ha chiesto e poi già ci aggiorniamo. Ok, se ci sei dopo magari ci facciamo la chiacchierata dopo. Ciao Claudia, a dopo se coincide, dai, tanto è già quasi ora di cena. Ciao. Amorino, chi è là? Ah, sai chi è? Sempre dalle alture del Monte dei Carbonazzi. Beh. Ah già? Ho detto ripreso ti sì. Ehi, mi sono uscito a portare il cane. Già, sai, quando prendo un pochino di quell'aria bella fresca, ma poi sta anche piovendomi. Oh! C'è il porticato qua, c'è stato il porticato, non so misciato. E anch'io ho guardato sotto il porticato. Ha fatto la pipì in fondo, poi ha fatto la popò, l'ho raccolta e già va bene così. Il cane. No, mi stavo mudando dall'altra parte. Ho mandato anche le foto a Gianni Capri che le ha volute, a vedere come era uscito questo Inuit. Ma poi fra poco tocca a Guido, hai detto, te lo do io la gazzosa. Appa. Ehi, io mi sono addormentato qua, mi è venuto un coso di sonno, e mi sono cominciato da là. Mi sono addormentato, ho sentito Roberto che mi stava chiamando, ma vagamente, non ero grimbato, non ce la facevo manco a rispondere. Sì, come così, no? Non c'è niente che tenga, quando non vedi giorno, io stesso. A volte a me mi parlano, sono nel divano, caput. No, non rispondo, capito? Già va bene. Sì, mi ha fatto quel capo, te l'ho detto. Ho già passato sotto il battiscopo, non si vede niente. Già girato dietro la scrivania, la base, questa non è la scrivania, l'altra sì. La base della radio e non c'è niente per terra, c'è solo attaccare il commutatore, adesso ho staccato l'antenna diretta, gli ho messo il marinotto, poi lo colleghiamo, ma detto che lunedì o martedì Luca dovrebbe arrivare il commutatore. Bene, te lo usi per le radio invece che per le antenne, così? una volta in una diretta già e faccio tre radio, capite? Metto un'antenna, trasmissioni per tre radio, quelle principali che uso, le altre non mi interessano. Infatti, ma va bene. Interessante che vadano bene i commutatori. Quelli della Zattagia non servirebbero più nulla. Io l'ho buttato che era nuovo, l'ho aperto per vedere cosa aveva, era tutto catapulso, e non funzionava. Tutto fondo scala, ho provato, allora c'aveva anche lo spray per contatti, quello che si usa per contatti elettrici. E niente, nulla, manco quello gli ha fatto bene. No, non ce ne i contatti elettrici, non già. Quando c'è il falso contatto non è ossido, lascia perdere, quelli non servono a niente. No, questo è della Nissei, già è buono, già sono buoni, capito? Nissei, Daiwa, già sono buoni. Poi io non è che devo commutare le grandi potenze, capito? C'è un ingresso all'antenna diretta e tre commutazioni da 60 centimetri, niente di che. Ho già preparato le spezzoni, anche c'ho tutto. Andavè. Quindi adesso come ti sei posizionato? Da una parte c'hai le radio amatoriale, dall'altra c'hai gli apparati, così. Esatto, adesso sono nella base, per farti capire, quella che ha fatto Giulio, la base grande, che è quella più lunga, e lì ci sono le basi che ti ho mandato. Tutte le con i microfoni, 4 MB più 5, fra poco 5. Domani ne prendo un altro. E niente, e sono qua. Mi giro. Due sedie sono, due poltroncine d'ufficio. Una è dall'altra parte e una da questa, per non stare con una sedia sola, capito? Con una poltroncina sola. E è ordinato, c'ho anche il computer da questa parte, bello largo, bello spazioso. Già era troppo incasinata, cioè troppo ordinatissima, ma incasinata nel senso che c'era troppa roba e per pulire ci voleva un casino. Allora ho separato come avevo prima. Bene, bella. E vabbè, è troppo lunga e è impegnativa anche da pulire, da fare. Già va bene così. Ehi, troppo lunga. C'era anche la sopraelevata, come lo chiamavo io, capito? Poi all'angolo, tutti gli altri, così va. Ho fatto un lavoro, ma veramente bello e ordinato. Bello e ordinato, perché gli alimentatori sono sotto l'altra scrivania, quindi non si vedono neanche, non ci sono cavi, manco un cavo in mezzo ai piedi, non si vede niente. Quindi sono radio e microfoni di tavola. E così è la... cavi sono tutti dietro e basta, non vedi nulla, non volante. E anche gli alimentatori, quando li faccio passare i cavi, li faccio passare sotto l'alimentatore e poi arrivano le banane. Esatto, lui è sempre più sonno, ma già adesso sto pensando, siccome Roberto mi aveva dato un rosmetro, solo rosmetro però, di quello attaccare a parete, visto che è vintage anche questo, nella parte dove ci sono questi baracchini, l'attacca a parete e così c'ho anche sotto controllo stazionario e vatte delle radio. Ma di quale? Di quelli antichi? Sì, della AEC, IG, AEC, modello, questo è dell'Electronic, mette l'Electronic, modello non si legge più, dentro la scatola, nuovo, e quelli lunghi che si attaccano a parete. Capito? E c'ha solo l'ormetro, SWR, riflessa e diretta, così c'ho le stazionarie sotto controllo, capito? Io, ma ce n'erano due tipi, un tipo che rimaneva rettangolare e allungato così, e un tipo che rimaneva quadrato, che rimaneva in ferro pieno, solitamente li facevano cerisi metallizzati ed erano quelli proprio antichi. Questo non è ceretto metallizzato, è grigio metallizzato scuro ed è simile a quello, sì, rettangolare, che in pratica c'è l'antenna in alto e una sotto. Ho capito, sì. E devono essere quelli proprio antichi. E vabbè, ti vuoi fare proprio la zona vintage. Sì, ci voglio anche un altro, però è rettangolare, grande, da mettere sopra la radio, ma sulla radio non metto niente, questo lo attacco al muro. Tanto c'è già un buchettino dove c'era la vite della massa, della barra della massa, il rame, quella rotta, ma non serve a niente. E ci metto questo. No, adesso no, non fa perché devo usare il trappanino, faccio casino. Domani mattina me l'ho lasciato fuori. Domani mattina lo piglio e l'attacco. Così e faccio lo spezzone e c'ho sotto controllo anche la parte vintage, capito? Ne avevo preso uno io alla GBC della Midland Rosmetro accordatore modulometro ed era grande quanto, per intenderci, quanto un Galaxy, così come lunghezza, poi come larghezza era più basso, però come lunghezza era quanto un Galaxy, tutto illuminato, bello, l'ho visto, me l'ho comprato, l'ho pagato una barca di soldi, sono andato a casa, adesso avevo il filo avvolto in un elastico, questo elastico era appiccicato, sciolto mi sopra il filo, cazzo, che strano, cazzo, ma si va via un tempo in su coso, sono stato in magazzino, l'ho acceso, ho attaccato tutto, le antenne, tutto quanto, non funzionava un cazzo, se premevi la portante non andavano gli strumenti, si accendeva però non andavano gli strumenti, né uno né l'altro né l'altro, provato a modulare, nulla. E allora ho preso, l'ho impacchettato di nuovo, sono guardato dalla radio vicina, ho detto, questa cosa non funziona, come non funziona? Non funziona, cioè, ma l'ha attaccato bene, gli attacchi li ha fatti bene, sai come te, tu no, l'hai trascotto lì, come fare gli attacchi, non ti preoccupare, apri la battuta di dinamica. E se poi ci fate, ma l'hai attaccato bene, guarda che, ma non ti faceva vedere, dopo 40 anni attaccando i baracchini, a ira. Mi devi insegnare tu come devo attaccarti. No, vabbè. Già ho capito qual è quello grande, sì. C'è la modulometro, rosmetro, vatte, traccoratore, me ricordo era grigio scuro, anche quello molto bello, illuminato, sì. Ma io gli ho ragione, mi sembra l'avuto anch'io. Devo vedere qualche foto e ciò. Adesso a questa parete metto tutte le foto vintage e faccio vedere che è un capolavoro. Ci ha tolto la cartina, quelle due cartine che c'erano, le ho passate all'altra parte, e qua devo comprarne altre due di cui porta foto in vetro, non lo ci metto. E faccio tutta la parete delle radio vintage che ho avuto, che avevo quando ho iniziato, tutto. Questa parte qua deve essere solo vintage, boh. E vabbè. Fanno tutto vintage, dai, meglio, ho visto che si è tomarano. Sì, poi ci faccio il peggio già. Ce le avevo queste radio, alla fine non le mettevo perché avevo eliminato una base che era davanti alla finestra. No, mia moglie era sempre incazzata, non poteva pulirmi i vetri, non poteva fare niente, la ne ho tolta. Togliendo quella base, che era la L di questa grande, che sempre ha fatto lavoro Giulio, l'ho portata su. E adesso che ho iniziato a eliminare un po' di radio, che avevo spazio, ho detto, ma perché non fare? Ma passo con 3-4 radio dall'altra parte, mi sposto tutti i cavi, tutto, e lì mi faccio la parte amatoriale. E qua mi metto i vintage, i baracchini, dai, per non chiamare i vintage, i baracchini, base. E così ho fatto, è venuto un bel lavoro, veramente un bel lavoro. Adesso anche tu puoi andare sul canale 20 che c'hai i vintage. E se andiamo in fondo, forse li ho avuti prima di loro i vintage, lascia aperta, se andiamo in fondo, se andiamo in fondo, comunque, poi io ho sempre modulato col 430, col 140, poi ho comprato il 440, insomma, però i baracchini vintage li ho sempre avuti io, tant'è vero che ne ho venduto anche a loro, per capirci, quindi uno a quello sui montagni, allora abitava Natalino, uno o due mi sembra, uno forse, uguale a questo, però non so se era il 294 come questo, e l'altro lui ce l'aveva dato a mio padrino, già ne ho avuto, e se tu consigli ne ho dato solo 7 o 8 a Gianni Capri 2, altre 5 o 6 le ho date a Roberto, più ne ho altre 1, 2, 3, 4, 5 e altre 6 ne ho io. Oh yeah. ma lui si è fatto male a darlo, quello era bello davvero. Vabbè, ma mio padrino non batte ciglio, capito? No, abbiamo fatto uno scambio, non mi ricordo cosa mi aveva fatto, non mi ricordo. Perché quella serie lì a lui le mancava, capito? Stava iniziando a ordinare, a fare. E le mancava quella serie, gli ho dato, lei quello che lui c'ha in vetrina proprio che custodisce alla grande, sono uno sopra l'altro, prima serie, seconda serie. E terza serie, ce l'ha tutte e tre lui, ce l'ha tutte e tre, o tutte e quattro, non so, poi c'ha tutti quelli praticamente veicolari, dai, di quella serie lì. No, guarda, io ho letto anche a Gianni Capredue, se trovo il Polmar di questa che sto usando, perché c'è l'Inuit 294, c'è il Polmar 7000, che è uguale a questa, però è diversa marca, capite? Se lo trovo, a pochi soldi me lo prendo, ne metto uno vicino all'altro, senza mettere uno sopra l'altro, uno a fianco all'altro, posto già ce n'è, e li uso tutti e due. Ma infatti, li puoi usare tutti e due almeno. No, anche a me non mi piace l'uno sull'altro, io ho messo solo il manico sopra al 2009 perché non ci stava, però il 2009 non potevo rinunciare, era troppo bello, è un apparecchio che mi è sempre piaciuto, quindi l'ho voluto inserire lo stesso e l'ho messo sopra, ma i miei non si muovono, i miei sono tutti attaccati a biadesivo, no, non si muove uno con l'altro. Non si muove in onda, no, io non ho biadesivo, sono talmente pesante le radio, che sono uno in fila all'altro, solo che c'ho il computer dalla parte della finestra, per non avere il cavo in mezzo alle palle, ma anche quello è in partenza, il computer così grande non lo voglio più. Adesso sto vedendo, non posso prendere un tablet, un portatile, qualcosa del genere per recuperare spazio, capito? E così mi sono di nuovo con mezzo alle palle. K di idrogeno, che ne so, cazzo di 8:20, minchia, ma quanti gradi sono qua dentro? No, è possibile, 21, 22, 23, cazzo, ma chi so gioco con un rendere in grado, 24 gradi ci sono. Dentro casa, è fura. Cazzo, ma qua dentro non c'è portati, c'è la propria. E anche qua ne hanno accesi i termofiguri, ma li abbiamo fatti ammassare perché erano troppo furti. Gli ha detto il capocondominio di abbassarli a quello che è venuto, che aggiusta tutte, Bartolo si chiama, mi pare, quello che aggiusta le caldaie, e li ha fatti abbassare. Bortolo, è copiato. Io mi stavo prendendo il coscio, un po' d'accendere, l'ho fatto a finestra così fumo una sigaretta. No, noi ci abbiamo l'impianto Medea, l'impianto a gas, prima era gasolio, ma da quando è a gas non si possono toccare i termosifoni. Certo, non ci sono mai avvisato, non ripiro più. Guarda, da lontano il termometro nell'orologio mi sembrano, non so se sono 24 o 27, no, 24 gradi. Il disordine si vola. No, io ne mettevo a 15 gradi, andava bene, adesso non mi pare che è troppo bacio, boh, l'ha abbassato troppo secondo me, è perché sento un po' di freddo ai piedi, solitamente prima quando attaccavo il riscaldamento mi si faceva la faccia rossa come Peperone, e dice che vado qua, è già tardi, dai, ci porto il carro, se no non ando più oggi, aiuta Suri che andiamo, mi nomi, ci avvisate Sine. E anche il mio, come prendo il guinzaglio, adesso sei nuovo con il gatto, proprio vicino al termosifone, c'è un medicato. Vai, già tranquillo, già sono qua in stanza, io se rientri sentiamo dopo, se no buona serata e buon tutto, ok? No, non rientro qua, mi guardo Tussi Gervales, che c'è bene. E l'altro giorno gli ho toccato quando stavo ballando, dalle cose, dal video del televisore, gli ho toccato il culetto e ha detto bello. No, a parte gli scherzi, no, lo guardo perché mi piace anche lo spettacolo e tutto quanto, mi diverte, mi fanno ridere Gerry Scotti, adesso poveraccio, era trappito a casa col coronavirus, visto che è morto anche un dottore di quelli di famiglia, che è quello del corso, poveraccio. Il dottor Fiori abitava qua a Carbonazzi, non lo conosco. conoscevo. Quello per rompere le balle, cazzo, la scuderia mi manca, cazzo. Porca miseria. La scuderia pieno. Eppure quello importatore, quello con la barba bianca, che era degli squali, delle complesse degli squali, ce le presenti. Dottor Contini, da stamattina mi ha chiamato subito mio fratello, il medico di mamma era. Dottor Conti, esatto. Quando io scendevo con l'ambulanza che facevano, io facevo tutti gli anni, li avevo fatti prima di andare via, ho fatto tutti gli anni delle discese a Porto Torres, a San Bovino, no, la Bovino, dove scendevano i pellegrini, poi si sentivano tutti male in chiesa perché già la camminata, poi il caldo che c'era in chiesa, sentì gli animali, li portavamo a due fuori, c'eravamo io, dottor Conti e un altro volontario nostro che li soccorreva. Il dottor Conti rimaneva dentro l'ambulanza e li faceva i primi... poi una volta ci ha dato ordine di partire a Sassari perché questa ragazza come è svenuta ha sbattuto la testa a terra e gli ha riscontrato un trauma cranico, quindi ci ha fatto portare d'urgenza a Sassari. Bravo medico, non so se hai conosciuto anche il dottor Pugioni, lui è il dottor Pugioni, il dottor Mazzoni, il dottor Pani. Erano i mitici. Io l'avevo visto anche suonando il coso nel complesso degli squali, avevano fatto una serata in via Dipendenza lì, dove c'è lo spiazzo, avevano suonato lì. Sì, lo studio lungo l'ho fatto due o tre anni fa per la festa grande. C'erano lui e Gino Marcia, me lo ricordo bene. Sì, Marco Perantoni. Sì, c'era tutta la greffetta, dai, gli anziani, però erano bravi, erano bravi suonando. Lo so, anche Claudio era molto bravo suonando, Claudio Perantoni, adesso ha avuto un tumore alla gola e l'hanno operato, non c'ha più voce. Cioè, tutto il complesso distrutto, dai. È un po' a casino andato. Vabbè, comunque, quando me l'ha detto Irene, mia sorella, sono rimasto secco, perché lo conoscevo bene, dai. Lo conoscevo proprio bene, operavamo insieme, quindi non c'è, collaboravamo proprio a San Gavino lì, collaboravamo sempre insieme, lui era sempre sulla nostra ambulanza e niente, c'era il cison di Porto Torres e noi. E allora ce n'era, eravamo pochi, lo so, è stato il medico di mia madre, nostro, quando era morto il dottor Pani, cioè il dottor Mazzoni prima era, dottor Pugioni, dottor Mazzoni, dottor Pani e poi dottor Contini, perché lui era molto più giovane. Quindi erano i quattro proprio mitici medici di Porto Torres, cioè più anziani, capito? Va bene, già, dai, non ti trattengo. Ok, ci sentiamo dopo. Sto andando sempre bene, sì? Sempre bene, sempre Rudy Russo. E la mia radio è sempre buona, Buona, buona. Lascia stare il microfono in via, no, Duca? Cava, dai. Ci sentiamo magari se coincide domani, dai. Ciao! Ciao, buona passeggiata, ciao. Fatti sentire domani mattina, ciao. Ia, appena mi libero già ti chiamo, ciao.